Leone, gennaio. Il leone inizia l'anno con un bellissimo trigono di Giove, che darà particolare sostegno soprattutto ai nati nella prima decade. Giove dà risalto alla nona casa, facendo venire ai leoni il desiderio di scoprire nuovi lidi. Il viaggio potrà essere interiore come esteriore, ma sarà guidato verso nuove esperienze e si sentirà nuovamente aperto verso il mondo. Saturno continua a portare un po' di rigore nelle relazioni, soprattutto ai nati nella terza decade. Il 18, Mercurio riprenderà il moto diretto, facendovi sentire più liberi nei movimenti e nelle possibilità di espressione, e la congiunzione di Venere a Saturno del 12 di gennaio vi potrà rendere leggermente più tolleranti e comprensivi. Febbraio. Mercurio nel vostro sesto campo vi permetterà di avere i giusti riconoscimenti sul lavoro. Il 14 febbraio la congiunzione di Venere con Nettuno nel vostro ottavo campo potranno risvegliare in voi passioni sopite, mentre verso la fine del mese la congiunzione di Venere a Giove in nona casa vi farà tornare la voglia di viaggiare o di iniziare un nuovo percorso accanto alla persona amata. Marte, nella vostra undicesima, vi porterà a condividere momenti gradevoli all'aria aperta con le persone a voi care, in particolare verso il 20 del mese, quando anche Mercurio sosterrà Marte attraverso un bellissimo trigono dall'acquario. Marzo, mese di grandi cambiamenti. Saturno passerà in pesce entrando nel vostro ottavo campo. Vi sentirete più riflessivi, avrete la necessità di porre maggiore attenzione al settore finanziario e anche in campo passionale vi sentirete il bisogno di selezionare con molta attenzione le persone da frequentare. Dalla seconda metà di marzo, Venere nel decimo campo vi aprirà delle nuove opportunità di lavoro. Il passaggio di Plutone in Acquario il 23 di marzo vi porterà a comprendere le dinamiche di potere che spesso in modo inconscio si instaurano nei rapporti di coppia, così come nei rapporti di amicizia. Da questa data in avanti farete delle esperienze che vi porteranno grandi consapevolezze nell'ambito della gestione del potere. Aprile, Marte entra nella dodicesima, quindi avrete l'opportunità di dare un taglio a delle vecchie abitudini non più utili alla vostra evoluzione. Il 10 del mese il Sole congiunto a Giove in decima vi potrebbe dare una bella apertura professionale, sostenuta da un uomo a voi vicino. Inoltre, Venere nella vostra undicesima in Gemelli vi permetterà di mettere pace in contesti amicali e aiutare delle persone a voi vicine a ritrovare l'armonia. Il 15 l'asteroide Vesta entrerà in Toro, potrete sentirvi più concreti, riuscendo a vedere le cose come sono senza necessità di abbellimenti. Attenzione al 20 di aprile, giorno in cui entra in campo un'eclissi molto complessa per voi che potrebbe mettervi alla prova in contesti lavorativi o legati alla vostra realizzazione personale. Maggio, l'asteroide Pallade entrerà in Leone il 2 del mese, porterà il desiderio di esprimervi creativamente e avrete il desiderio di comprendere voi stessi, ma lo farete in modo creativo e gioioso. Il 9 di maggio, con Sole congiunto ad Urano, potrete avere desiderio di portare un cambiamento netto nella vostra sfera professionale. Il 14, Mercurio riprende il suo moto diretto, dandovi sprint e soddisfazioni in campo lavorativo. L'influsso benefico di Giove, anch'esso in decima, vi porterà protezioni, aiuti influenti, che vi permetteranno di esprimere al meglio le vostre potenzialità. Vi sentirete radianti e apprezzati per le vostre competenze e qualità umane. Giugno, Venere entrerà in Leone il 5 del mese, quindi vi sentirete carichi di emotività e il vostro fascino si esprimerà in modo naturale, senza che voi dobbiate fare nessuno sforzo. Mercurio, il 4 del mese, si congiungerà ad Urano nel Toro, portandovi intuizioni, soprattutto legate all'ambiente del lavoro, e potreste avere la spinta a dire tutto quello che pensate. Trovate il giusto equilibrio esprimendole con la giusta diplomazia. Dall'11 Mercurio entrerà in Gemelli facendo un bel sestile e illuminando il vostro undicesimo campo. Vi sentirete quindi ben disposti verso il gruppo e avrete molto piacere a stare in compagnia. Il 17, una data molto importante per voi leoni, dato che Giove entrerà nel vostro decimo campo, portando davvero grandi cambiamenti in campo lavorativo e finanziario. Vi sentirete apprezzati e avrete molti riconoscimenti attesi da molto tempo. Attenzione al 26, Mercurio entrerà in Cancro e Marte dal vostro primo campo farà una scintillante quadratura con Urano. Potreste aver bisogno di esprimere la vostra autorevolezza e imporre dei limiti per mantenere autonomia e proteggere il vostro spazio, sia fisico che emotivo. Luglio, il 3 del mese, la luna piena in Cancro vi porterà a comprendere delle motivazioni inconsce che vi hanno guidato verso situazioni di cui state attualmente vivendo le conseguenze. A partire dal 10 del mese, Marte nel vostro secondo campo vi porterà a dovervi occupare in modo concreto delle vostre finanze, mentre dall'11 Mercurio entrerà nel vostro primo campo, rendendovi più dinamici e brillanti. Il 12 il nodo nord passerà dal toro all'ariete, portando la pressione del karma verso la ricerca di nuove possibili dimensioni, dentro le quali vivere ed espandervi. In particolare saranno i nati nella terza decade a percepirne l'influenza. Il 17 vi ritroverete a vivere qualche discussione legata ad aspetti economici, data la quadratura di Mercurio a Giove, che entro il 27 si dovrebbe sciogliere naturalmente, data la congiunzione benefica di Mercurio a Venere, portando chiarimenti e aperture. Osservate le vostre emozioni, soprattutto dal 23 in avanti, poiché un'importante retrogradazione di Venere nel vostro primo campo vi potrà dare importanti indicazioni sul vostro modo d'amare e come trasformarlo in modo evolutivo e costruttivo. Sempre lo stesso giorno, anche il Sole entrerà nel vostro primo campo, il Leone, aiutandovi a comprendere con chiarezza il vostro potenziale, così come i vostri punti deboli, dandovi la forza di trasformarli. Agosto, Mercurio in Vergine, opposto a Saturno, vi potrà far rivivere momenti di ansia rispetto a impegni di natura economica, problematiche che già dal 10 si dovrebbero alleggerire, poiché Mercurio trigono a Giove vi dovrebbe aiutare a trovare la soluzione più costruttiva a tale ostacolo. Il 23, oltre a lasciare il vostro segno, il Sole entra in Vergine, iniziando a darvi delle indicazioni su come stabilizzare le finanze e le relazioni. Inoltre, Mercurio inizia il moto retrogrado, aiutandovi a guardare le cose dall'interno, riuscendo a comprendere le emozioni degli altri e la vera origine delle vostre reazioni. Dal 27, Marte in Bilancia vi porterà ad agire in modo costruttivo e diplomatico, oltre ad ampliare le vostre amicizie. Settembre, il 4, Venere riprende il moto diretto, riuscendo a mettere in pratica le vostre azioni, sia in campo economico che in campo relazionale. Attenzione, solo intorno al 19, quando il Sole si opporrà a Nettuno, dandovi un senso di incertezza. Il 26 settembre, la luna piena in Ariete nel vostro nono campo vi aiuterà a mettere l'energia nello studio o nelle formazioni, e in particolare ne saranno beneficiati i nati nella prima decade. Ottobre, il 5, Mercurio entra in Bilancia, aiutandovi con un benefico sestile dal vostro terzo campo. Riuscirete a farvi capire e vi sentirete apprezzati per le vostre doti comunicative. Il 17, Marte entra in Scorpione, portando il focus sul bisogno di dedicarvi fattivamente ai problemi della casa o affrontare vecchie beghe familiari. Intorno al 28 ci saranno molti sconvolgimenti, in primis una forte eclissi di luna porterà dei cambiamenti che si riverberanno sia sulla sfera familiare che sulla sfera lavorativa. Inoltre, prima Marte opposto a Giove in Toro e poco dopo Mercurio opposto sempre a Giove vi porterà a dover prendere in mano delle situazioni spinose e gestirle cercando di comprendere le vere ragioni del conflitto. Novembre, l'8 novembre, Venere entrerà in Bilancia, aiutandovi con la sua diplomazia a gestire al meglio le vostre dinamiche relazionali. Dal 10 Mercurio entrerà in Sagittario portando nuove conoscenze e il desiderio di vivere con leggerezza e gioia il quotidiano. Dal 22 del mese anche il Sole vi sosterrà dalla quinta casa, aiutandovi anche a comprendere i figli se siete genitori o esprimere la vostra creatività nel campo di vostro interesse. Anche Marte in quinta dal 24 vi renderà appassionali e dinamici e saranno davvero favorite delle nuove conoscenze e vi sentirete magnetici. Dicembre. Dal primo del mese, Mercurio in Capricorno vi renderà disciplinati nel lavoro, aiutandovi ad ottenere tutti i risultati sperati. Il 4 del mese vedrà l'entrata di Venere nel vostro quarto campo. Vi sentirete obbligati ad occuparvi della casa e della famiglia, ma i riscontri positivi vi aiuteranno a farlo con piacere e soddisfazione. Dal 13 del mese, Mercurio, che inizierà il moto retrogrado portandovi ad avere un po' di cautela nell'esprimere la vostra passionalità e la vostra creatività, richiedendovi di porre attenzione all'altro e agli effetti delle vostre azioni. Gli ultimi 10 giorni del mese vedranno l'entrata di Mercurio e di Venere in Sagittario, che vi aiuteranno con un benefico trigono. Riuscirete ad esprimervi al meglio, aiutando gli altri con le vostre parole, aiutati anche dalla luna piena del 27 che si effettuerà in Cancro nel vostro dodicesimo settore, rendendovi introspettivi ed empatici. Allora, il 2023 è un anno fondamentale per la realizzazione professionale, dopo un primo semestre volto ad esprimere il vostro bisogno di libertà e la vostra fame di conoscenza. In modo totalmente spontaneo, saprete gestire le vostre finanze, soprattutto da marzo in avanti, e saprete come esprimere il potere nei rapporti interpersonali e gestirlo in modo sano e costruttivo.